numero voglio noi che te ne vengono di dito. Aspetta che comodo di nuovo, guarda, devo staccare però l'antenna, se no non ci arriva. Riprendi Massimiliano. Commutatore, grazie, due spezzoni, non sei lì a, a stare staccando, facendo. Cappa, e vabbè, è andato e usci, e noi vabbiamo lì che la contentiamo, va. Infatti, fino a che sei troppo Massimiliano, non aggiungerei nuovi, di stazioni, complete con Roswell e tutto. Ognuno ha il suo alimentatore, tranne il Galaxy, vabbè, che praticamente quello lì va elettrico, va 220, ma gli altri hanno tutti l'alimentatore a parte. Sì, vabbè, qui sono tutti 220. Questo è il 294, CB294 della Inuit. Va bene, va benissimo. Sono a pompa, vedo lo smitter che impazzisce. In cuffia l'ho sentita proprio ieri, ma c'è una modulazione un bel forte. E ce l'ho, vedi, questo è a 7 il microfono, è il mic gain a manetta. Com'è Massimiliano? Bellissima. Hai visto? Che Roberto Quadrato, ma tu, ma dimmi tu, con tutte le radio che hai, mi ha detto, va, c'hai l'Inuit che è una favola, con l'MB più 5, Tony a 1, una favola. Vabbè, gallina vecchia fa buon brodo. Avanti Robafè, tanto Gianfranco è impegnato. Ascoltalo, scusa, ho già. Ehi. Io avrei provato a fare uno scambio. E cioè? E cioè mettere questo MB più 5 sul Galaxy. Facciamo subito, tanto c'ho l'adattatore, perché questo c'ha l'inversione da sotto a sopra, però c'ho quell'adattatore che conosci. Aspetta che proviamo a mettere l'MB più 5 sul Galaxy, a vedere. Sì, perché questo l'MB più 5 mi sembra che spinge di più in confronto all'altro, vero già? Ehi, sì. Eccolo che gli ho dato io, mi sa. No, so chi gliel'ha dato, però a orecchio mi, a orecchio. Tu, Brofè, che c'ha l'orecchio più peloso, com'è? No, già esce fuori bella prepotente anche questa radiolina. Sì, mi piace. Allora, questo è il Galaxy con l'MB più 5 e l'adattatore. Vedi che spinge di più. No, questo non è quello tuo, questo sono quelli nuovi. Questi sono quelli nuovi, capito? Questi sono originali, capsule originale, senza ponticelli e senza niente. Originali. Non c'è cotone, non c'è niente. Originali, mai toccati. Non li tocco manco la lamiera. Nulla, né lamiera, né cotone, niente. Originale, sia questo che l'MB più 4. E vedi, va bene. Questo qui va molto bene sul Galaxy. Sì, questo spinge molto di più dell'altro su questa radio. Ce l'ho a 6, aspetta che lo metto a 7, guarda, così a 7 l'ho messo, bene va, ho troppo alto. Guarda, così a me mi piace più uscire. Allora che a 7, vamos alla playa. Poni la manettone a vedere come esce. A manettone? Questo è il manettone, rulla. Ora, te a 9 ce l'ho, ora. Guarda a vedere a 9, pronto. Si sente qualcosa del genere, non so cosa sia. Però pompa un po' di più e lo lascerei così, se non ci fosse quel rumorino sottofondo. No, stanno rullando, stanno. C'era il coso acceso. Oh, senti. Eia, sentivo questo rumore, non capivo cos'è. Però va bene, mi sa che me lo compro anch'io per il Galaxy, quello lì. Che fine a radio. Ma non la devi toccare già, originale. Tieni conto che io ho il 50% della voce già superiore alla tua, quindi non lo devi toccare. Aspetta, chiudo la porta. Vabbè, i collegamenti li devi fare per il Galaxy, devi mettere i fili di sopra sotto e viceversa. Quel collegamento lì devi fare. Sì, allora adesso ho chiuso la porta, guarda. Sì, infatti io sto usando l'adattatore perché c'hanno la differenza, capito? Com'è Massimiliano? Bella, forte, un bel forte, troppo secondo me. Secondo me lo vedete a 8. Perché secondo me è meglio a 8. A 8 l'abbiamo messo adesso, adesso è 8. Buon radio, grazie. Il tuo pelo cos'è? anni. Sì, gliel'ho detto, va benissimo, va bene, lasciarlo così, fermarlo e lasciarlo così, con le baby più 5. Sì, ma era reso appunto che con le baby più 5 ci va bene il gas, sia col tunnel più 3 che le baby più 5. Io, vabbè, avevo questo di microfono, gli ho messo questo qua, ma penso che vada bene lo stesso. Sì, cos'è questo? No, questo qui è la statica, lo sto usando col 3009, però nel Galaxy ho messo, come si chiama, l'Echo Master Plus. Tu c'avevi un microfono bello che te l'ho venduto, fa giù per te, quel diavoletto rosso. Sì, allora, la Static comunque ce l'ha di suo, la Static tu su qualsiasi tipo di radio lo metti, è un microfono che dà molti acuti. Sì, perché c'è la cap sulla ceramica. Sì, invece quel diavoletto rosso, quello è bello, quello era un bel microfono. Sempre quel difetto lì fa, diciamo, se non vogliamo chiamare difetto, quella prerogativa lì ce l'ha che ti fa uscire con più acuti. Vabbè, questo qua è un regalo che mi hanno fatto, l'ho messo. Sì, sì, va bene, vai qua. KK di Roger, va bene, va bene. No, sono contentissimo anche perché gli abbinamenti, già ti ho detto, ne ho preso 4 nuovi di microfoni, 4. E pian pianino quelli che ho modificati li sto portando tutti alla normalità, lasciando naturalmente purtroppo la capsula modificata, ma sto staccando i ponti che hanno fatto, quei ponticelli all'interno, tutte quelle cose. Anche il tuo senza ponticello già. Anche il tuo, capito? Quello che ti ho fatto ascoltare poco fa è senza ponticello, normale, solo la capsula cambia. Però questo è originale, originale dalla casa, non ho toccato niente, né messo, tolto lamierino, cotone, niente. Io non ho bisogno di toccare niente e va benissimo alla grande. Quanto li sta dando adesso le più 5 per saperlo? Allora, a me con lo sconto mi ha dato l'MB più 4 a 60 euro e l'MB più 5 a 70 euro scontati. E anche a me lo fa sempre lo sconto, però già va bene, già va bene. E di altro cos'è arrivato? Nulla? Niente, ti ho detto, allora, i primi due che ho preso ce li aveva in negozio, a me li ho portati via. Ne ho ordinato altri due, stamattina sono andato e invece non sono arrivati. Perché è arrivato un pacco, pensava che ci fossero dentro gli altri microfoni, invece non ce n'erano, capito? Quindi non sono arrivati. Ne ho ordinato altri due e devo prendermi anche quei due, perché così completo lo standard che è senza microfono e il patch che sto usando il microfono del DAC, capito? Metto altri due microfoni, boh, e sono tutti, ognuno con il suo microfono. Sì, non penso che ne ordini due solo, ne ordinerai da 4 magari, gli altri due sono in più. Adesso chiedo se ce li ha. Ma è l'altezza che a me mi frega, perché tra un ripiano e l'altro, se metti quei microfoni che hanno pieghevole, la sta pieghevole, ok, se metti quelli fissi toccano. Io lo so. KK se lo so, ma alla fin fine Massimilia sai cosa faccio io, rimetto quell'altra base e mi rimetto la L, perché lavoro molto meglio con un'unica sedia e va bene così. Adesso vediamo qualche modifica, devo vedere un po', perché così allargo un pochino e sto molto meglio, perché adesso di radio ce n'è un bel di nuovo, ce n'è un bel. Va bene, Gianni Rubrofetta, riprendi. Comunque la radio, confermatemi se la devo lasciare così, a chi non ha gioia, bascia, tira e molla, lasciala così che va bene. Ehi, laga tutto così, dai. Una volta che trovi il livello di bilanciamento, non conviene stare sempre a toccare. Vediamo se rientra Gianfranco. Gianfranco, ci sei? Sì, già c'è Gianfranco, stava facendo cosa. Riprendi, Massimiliano. Sì, te lo stavo per dire io, Cla, perché questo va e viene da una parte all'altra, non è che... Eppure è bello vedere... Da dove sei seduto è bello vedere tutto, invece ti giri e c'hai delle radio, ti giri e ne hai delle altre, quindi secondo me se metti la L va meglio, anche perché mi serve la scrivania, a me non per altro. Sì, ma infatti pensando ci sta, come mi sa che se non ho mal di schiena, mi sa se non ho mal di schiena che faccio la modifica com'era. E ciccio, ha capito, anche perché così non ci vedono quel cavo in mezzo alle balle. Sì, faccio qualche modifica, dai. In settimana mi dedico a fare questa modifica. Metto la L, gli HF me li rimetto così dove sono. Il problema simile a che mi occupa la finestra, capito? Ma si incazza perché non può pulire i vetri, non può fare niente. Bisogna passare dietro, io non voglio che ci passi a chi magari mi sposta qualche radio, qualche cavo, per quello l'ho tolta, se no a me mi era molto utile, c'era molto più spazio, capito? Tutto lì. No, perché secondo me quella grande, dove hai tutte le radio, quella la devi portare leggermente verso la porta, almeno 30-40 centimetri, la sposti leggermente verso la porta e quella lì viene spostata dalla finestra, capito? Però è molto più bella perché dalla parte piccola ci metti la linea, quella dei 140, e ce l'hai lì, capito? Anche per allungare cavi e balle varie c'è tutto lì, poi ognuno a casa sua quasi mette le balle bianche, non è che, però secondo me è più carina. Se riesci a portarti la base grande più verso la porta, basta girare l'armadio al contrario, al posto di tenere le ante verso la finestra, le ante le giri verso la porta, capito? E lo spazio rimane, già c'è. Bianco per me. Claudio, ti posso chiamare a filo? Sì, è mezzo scarico, speriamo non si spenga Gianfra. Massimiliano, si può cernierata a muro, capito? Quella si abbassa, quello io tolgo tutte le radio, piego i piedi e si abbassa, capito? Quella grande grande. È cernierata a muro. Aspetta che risponda Gianfranco, dai. Aspetta, è entrata, chi è che è entrato avanti? Sei già mi sono, dai, ho cambiato apparecchiatura. E perché sei così basso adesso già? Perché questo apparecchio qua esce con 2,5 watt, una cosa del genere, ma si può sempre fare qualcosa, dai, proviamo così a vedere come va. E fai da quasi 9 a 9,20. Kappa, se va bene. Andrà bene, e questo qui è basso, perché è regolato basso, io non mi sono fidato a toccarlo, se no l'avrei messo anche a 5 watt, è regolato ben basso. Ia, va bene, va bene. Chi c'è l'altro sotto, avanti? Siamo arrivati noi, va. Sì, ho già, no, comunque va bene, cos'è questo qua, il Galaxy, o 980? No, questo qua è l'Intech 794, da base. Cambi la gamella. Ehi, va bene, ehi, alù. Sì, io so bene, va. Ah, c'hai il DM1000, sì, va bene, guarda, avanti, Lucaria. Ehi, mi finito Momo, là, Momo. Chi è già quello che abbiamo sistemato noi? Ehi, quello che abbiamo messo le luci blu. Ah, esce bene, fa passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Così esce meglio, guarda, così. Come un sacco. Guarda per come esce. Ah, esce bene, sì, bella radio, bella. Già, purtroppo ci ha fregato una cosa là, se ti ricordi, però l'abbiamo risolto. Radio va bene. Ogni tanto già l'accendo, là. Non è che sia la prima radio, è sempre il Galaxy, quella che uso di più è quella. Però le altre le accendo ogni tanto. Il 980 me lo metto in macchina e va alla grande. Se siamo arrivati a muro, sta via Giovanni Pasco, figurati, ero in macchina. Sono rientrato, Claudio Casamella. Luca, sali e scendi. Capito Massimiliano, è cernierato quello, Giulio l'ha fatto così perché chiaramente l'ho voluto io, quindi spostare tutto, rifare fuori nel muro, un casino, ma lascio stare così, se la biglia in culo già passo io dietro, me le pulisco io e vedi, non c'è problema. Mica devi togliere la cerniera dal muro, la cerniera mulli le viti dal legno, la spusti e ne puoi aggiungere un altro pezzettino volendo, non è che le togli le viti dal muro, le togli dal legno le viti, no? che poi sposti 40 centimetri quello che ti serve, 30, e poi le vite gliele rimetti, ovviamente. Se è trasformato al muro, mica hai avuto le viti dal muro. Spostare le cerniere, dai. Vabbè, se lo vedo. Cazzo, ballo, non ci smonta tutti i radio d'oro. Fammi pensare in settimana, vedo cosa si può fare. No, la base gliela metto. L'altra gliela metto, perché così è più... è ordinatissimo anche adesso, eh. Così c'è più posto, senza ombra di dubbio. Però vediamo, dai. Vediamo in settimana cosa fare, intanto ci massarda l'altro pezzo, c'ho già i piedi attaccati, quindi vediamo un pochino, va. Cappa di rosmetro, avanti a chi tocca, che io vado bene. Ecco, devi riempire tutto quanto di nuovo. Io ho registrato bene, no, perché secondo me lui ha sbagliato, lui diciamo che la base la doveva mettere dalla parte dove c'è l'armadio. Tutta lunga lì, tutta unica, fino al muro, da muro a muro, senza L, senza nulla, che si può fare, si può fare, basta mettere quelle due che ha, le mette le cerniere dall'altra parte e si sposta tutto da quella parte lì, e la parte diciamo dove davanti alla porta la scelta libera. Avanti il brecco. Sì, ciao, buonasera a tutti, Roberto da questa parte, ciao Massimiliano, Gianni, Claudio, Luca e poi non so chi ci sia, ho sentito solo a voi. Ciao, basta, c'è Gianfranco che sta facendo cosa, poi c'è la Luca Flipper che non so che fine abbia fatto, Luca Pedirrella e Massimiliano Gargamella. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Qui c'è la foto lui. Tra poco ti ho risposto, qua lo stai usando. No, negativo, è sotto quello grigio questo. Quello mi deve arrivare, lui. L'ho mandato a fare un allineamento. Ah, bello, sì, bello. Secondo me sono i migliori, Massimiliano. I veicolari, poi a gusti, dai, c'è chi piace il base, poi ci va anche spazio, ma preferisco più i veicolari. No, vabbè, anche quello già è bello, quello troverai 9, capito? Quello già è bello lo stesso. Per chi ha spazio sono belli i base, perché almeno ti elimini un po' di alimentatori e roba del genere. Però uno che ha spazio, a me piacciono anche a me i veicolari piacciono, la verità. Però piacciono anche le basi, ma non le vintage però, Mi piacciono più quelle più moderne. Ok? Avanti Roberto. Ok, dai, di cosa state parlando in particolare, dai, non ho seguito la conversazione. Ma un po' di radio, no? Un po' di microfoni, un po' di queste cose così, no? Degli spazi, di tutte queste cose qua. Si vede perché stanno facendo ancora stazioni base? Sì, ci sono qualche duro. E di che marca? Boh, io non ne ho più visto. Io trovo solo basi, però sono vintage, non ce l'hai fatte da poco. Ma ne ho vista una da poco, che non mi ricordo che marca sia, forse della Linco, ed è tipo il Galaxy, però è recente. Quello che c'è tastini, che quello lì l'ha ordinato dall'America, la stava vendendo. Non mi ricordo se quella lì è già, però è di nuova generazione. E c'ha le memorie, c'è tasti con le memorie, sì, l'ho visto, è tipo il Galaxy Turbo. È tipo una cosa del genere, bravo, c'è anche il Ranger di quella marca lì, che è come il Galaxy Turbo. Vecchia era anche il Kappa. Vai Lu. Ehi, sono rientrato, stavo facendo roba. Mi sono perso il filo del discorso, avanti. È entrato Roberto Quadrato. Vai Lu, bravo. Ehi, ciao Roberto, buonasera. Ben entrato nella ruota, dai, avanti. Ciao, ben sentito anche a te, cosa? Gianni, non più rumor, c'è il 4009 della Superstar Base, guardati quello e ti spaventi, quell'apparecchio è il più bello in assoluto, lo stanno facendo ancora, non so quanto possa costare perché è un HF, Bari, Burudru, pure di più di un HF, secondo come lo guardo. E dove lo fanno? In America? Lo fanno anche con marchiato con un altro nome, Alberec, mi sembra lo fanno in Germania pure, quello lì. Cerca Superstar 4009 Base, guardati quella radio lì, è una bestia. Aspetta che la guardo, se tu chiedi mi la piglio pure. Ma quello penso che non ti costi meno di 800 euro, una cosa del genere, perché c'è una marea di cose, è tutto digitale. Non è un problema, sono preso la No, vabbè, uno fa anche un ragionamento, dice spende tutti quei soldi, si compra un apparato HF. Non tutti la pensano così, Non l'ho mai visto però dal vero, l'ho sempre visto in fotografia questo baracchino, ma è allucinante. Poi lo stavo guardando, lo mostro il ciattolo. Poi c'è il vecchio 4009, ma quello io sto parlando l'ultimo, quello con tutta la tastiera, con tutte le funzioni, l'hai visto? Allora, Superstar 4009B. Ehi, con tutta la tastiera, siamo una KF. Infatti c'ha l'affarino, lo smitter digitale, è tipo mezzaluna, va? Si assomiglia un po' al 450 della Kenwood. Questo sicuramente uscirà con 100 watt. Penso che questo qua ci segna stazionario, watt e balle varie. Allora c'è la versione fumé, dai, diciamo, non proprio argento. Cacchio, è bellissimo, col display a cristalli liquidi, tutto lo smitter è, come si chiama, a colori, non solo il classico coso digitale, però a colori. Lo sto guardando qua, è bellissimo, dice che funzioni, c'ha una marea di cose, però non c'è mai il prezzo, non riesco mai a trovare il prezzo di questo apparecchio. Roberto Vernice Opacca. Oh Claudio, quella cosa mi hai dato, quel commutatore non serve. Non serve, no, quindi non era un problema mio di cavi interni, è una grandissima cagata ese commutatore, guarda. 30 euro buttate, ma già gli ha messo il flashback negativo, Luca. Secondo me tu gli hai dato più di un chilo, ma te l'hai sciolto, cazzo, lì ti recuperi, si possono recuperare i connettori da pannello, i PL da pannello e bu, oppure se si trova un commutatore migliore, perché secondo me ha scaldato quella parte. Già ne gioco io. No, quando ho preso quel commutatore non ce l'avevo io l'LA1000, avevo il B300 collegato, poi c'era 200 watt, avevo scritto un kilowatt, Danny. 200 watt, 250 watt massimo, e poi lo teniamo sempre a minimo, quindi non penso. È nato difettoso questo commutatore a futtedini. Devo guardare dentro, scusate monopolio, devo guardare dentro se c'è qualche componente, magari qualche diodo o cosa del genere, voglio verificare quello lì, perché non venuta, sono vuoti questi commutatori, non sono di quelli professionali, sono giocattolini e non venuta, voglio controllare dentro, lo apro e voglio vedere se per caso, non che non si sia sciolto proprio il commutatore vero e proprio. Roberto, dimmi Massimo, 4009 o 3009? 4009B, guarda tu, base. Oh vabbè, dimmi Massimo. No, io non ci credo mai quanto costa questa radio, ti spaventi. Ma poco o molto? Pochissimo. E poco qua? Allora qua io sto guardando questa Superstar 4009B 69,99 ed è anche disponibile. Se è così me lo sto comprando adesso, mi pare un po' gufrana. Così c'è scritto qua, poi io cosa ne so. Ma non è che ti dati un manuale per 69 euro? Magari ci mancano zero. Ma voglio dire 69 euro, 70 euro. Così dice, aspetta che vanno la foto, Roberto, guardala, c'è questa. Ma c'è forse qualche errore, mi pare che siano 69 euro. Ma cos'è, un vintage o che cosa? No, una radio di nuova generazione, qua, bellissima, bello, base, sembra il 450, anzi, di tanti ne ha fuori pure di più il 450. Mandate, compro, vendo, compro, scambio. Guarda la roba che te l'ho mandata, c'è questa. Manda a me, capo e bugnere. Sì, è questa qua Massimiliano, questa qui. Cosa? Manda anche a me, io roba e facciamo l'ordine, ne ordiniamo due. Non so se quel 69,99 a cosa equivalga, però dice disponibile, boh. Ma c'è un asterisco, io sapevo cosa vuol dire questo asterisco. Com'è che l'asterisco? Dove lo vedo l'asterisco? C'è 69,99 euro con l'asterisco. Beh, l'euro che blocca lì è quello, no? E poi dice anche disponibile però. Ehi, lo sto leggendo, infatti è quello che mi colpisce. Cioè, stiamo parlando della stessa radio, eh? Ehi, è la stessa radio che c'è il display digitale, lo smitter digitale a colori, più c'ha il frequenzimetro, i canali e c'ha una marea di tasti. State attenti. Allora, Superstar 4009B, dove c'è scritto disponibile, è quello disponibile. Non è quello base, è quello veicolare. Un base questo, Claudio. Quello nero, base. Grigio, che colore è? Questo dove c'è scritto 28.405, quello. Quello di quello stiamo parlando. C'è scritto 69,99 disponibile. Però, Claudio, io leggo così, ma poi bisogna vedere cosa è. Massimiliano. No. Allora, dove c'è scritto 69,99 euro disponibile, tu vai a guardare le foto sotto, disponibile c'è scritto in verde, in quello veicolare, non in quello base. Un attimo, io non riesco a vederlo, mi dà le scarpe Adidas, cazzo, metto Superstar 4009, mi dà le scarpe Adidas. Massimiliano, allora questo qua c'è scritto, fa da 23.815 a 30.555 in continuo questo apparecchio, per i 10 metri pure. Ehi, aspetta Gianni che tu giro la foto anche a te, aspetta. E cosa te ne vai dei 10 metri? Intanto non vuoi trattare, cosa ne vai? Per ascoltare, però io sto guardando qua, ci sono due foto, uno c'è scritto Superstar 4009 base, l'altro c'è scritto Superstar 4009B Changer, Clearance, quello lì è disponibile, c'è anche scritto disponibile, l'altro non c'è scritto disponibile, quindi io presumo che sia quello a 69 euro, a 70 euro. Sì, claro, infatti stiamo parlando di quello che c'è in foto grigio, lascia perdere le foto in basso, quello che c'è sopra lì, ma non è un veicolare. È un base, molto bello, cazzo sia bello, è molto bello, c'è 70 euro base. Ah, non è bari mezzo veicolare, ma hanno mezzo veicolare, tipo il Magnum, una cosa del genere. Bisognerebbe vedere le misure, se te le dà, ma... Comunque 70 euro questo si può comprare, se c'è disponibile mi contattiamo, ne facciamo mandare due robe. Allora adesso io ho qua le istruzioni, allora, c'è scritto questo apparecchio c'ha 25 watt in coso, in SSB e 10-15 watt in AM con Roger B regolabile, più c'ha due connettori da antenna, alimentazione 120 volt o 13,8 volt e poi c'ha una marea di cose, di funzioni questa cosa. Io l'avevo visto tempo fa, ma secondo me questo apparecchio non costava meno di 700-800 euro. Lo voglio anch'io, se costa col prezzo, lo prendo anch'io. Ah, non vi credo. Cioè c'è un errore, qualche cosa che non va, c'ha due ingressi da antenna posteriore pure. Ma due ingressi da antenna posteriore a cosa servono? Cioè se fa da 26 a 30, da 25 a 30, da 24 a 30, prende anche le varche, beh, cosa ne fai di due connettori? Cosa, due antenne le puoi attaccare? Non capisco. No, lo so, Mario, fa da 23,8 a 35,55, meno che non per metterti un'antenna per dire per i 10 metri e un'altra per gli 11 metri. Aspetta, scusi, allora, c'ha ragione Claudio, è un veicolare. Ma è chiaro che è un veicolare, ma si vede che è un veicolare, se state attenti, si vede che è un veicolare. Il base c'è scritto Superstar 4009 base, lì a sinistra, nella foto, e non c'è scritto disponibile. Quello a 70 euro, ok, ti manda la foto, ma è veicolare, si vede che è un veicolare. È un veicolare, perché c'è scritto disponibile, ed è un Superstar 4009B, clearance. Non ha niente a che fare con l'altro. Sì, c'ha due connettori dietro, lo sto guardando adesso. Poi la scatola, Superstar 4009B, sto guardando la scatola ed è grande quanto un veicolare. Ma si vede anche dalla foto che è un veicolare. Guarda l'altra foto, a fianco c'è l'altra foto, dove c'è scritto immagini correlate. Superstar 4009 base, quello è un base, ok? L'altro è un veicolare. Però comunque, bello, bello, veramente bello. Vedi che è un veicolare, Massimiliano, seconda foto che mi hai mandato. È un veicolare, non è un veicolare, non vedi le misure. Sì, ma comunque, anche sul veicolare, claro, 70 euro, cosa vuoi dire ci ha fatto? Sì, senza un po' di dubbio, a me veicolare, anche se a 50 euro, non è comodo. Io ho veicolare quelli che ho e basta. Se fosse stato, ma anche a 100 euro base, così, con quelle caratteristiche, l'avrei preso, ma il veicolare non me ne costa nulla. E poi è un Superstar, tanto un Superstar viaggio, quindi cosa gli dico, ancora un altro Superstar. Poi ci va lo Star Trek. Avanti, un braccio. Con Iuia, sempre comparendo, cro. Ehi, comparendo con Lucci. No, non lo curo. Stiamo solo dando uno sguardo, lo stiamo comprando. Eia. No, l'ho visto, è carino. Allora, se ne volete vedere un altro ancora più bello che c'è il prezzo, cerca Ranger 618 base. Questa è una cosa spettacolare, c'è un analizzatore di spettro e tutto, quello costa $579 ed è una cosa allucinante quanto è bello. Ed è un baracchino. Guardalo quanto è bello questo, Massimiliano, è enorme, guardalo qua. C'è scritto Ranger RHF 618 base station AM FM SSB CW 10 metri amator radio, $579 costa. Ma è sempre un baracchino, può avere anche 10 metri, capi? 10 metri c'era anche il Gazzi, cosa c'entra? Non è un problema. Anzi, a proposito, qualche giorno attacco l'antenna, lo provo in 10 metri, vabbè. Però sto dicendo, è sempre un baracchino, non si può comprare un baracchino di €270, dai, io questi discorsi con me non li fate, perché io massimo posso spendere per un baracchino di queste dimensioni, di questa, insomma, così, per il funzionamento che ha, massimo €200, ma €570 io ci compro un HF usato di ultima generazione. Cos'è il Ranger? Allora aspetta un attimino, Clark. Questo è un apparecchio di nuova generazione, touch screen, c'ha un monitor touch screen, c'ha tutte le funzioni touch screen, c'ha l'ingresso USB, va una marea di roba, sai quello che costa così tanto questa roba? Non l'avevo mai visto, questo si chiama Ranger RHF 618, è bello veramente, c'ha una, certo ti compri un HF, ma qua stiamo parlando di baracchini di ultimissima generazione, ingresso USB, che lo puoi interfacciare al computer, c'ha il coso realizzato rispetto, c'è un televisore dentro. Ehi Robè, sempre di baracchini stiamo parlando, io quelle cifre non le spendo, un baracchino è inutile, che può avere anche l'elicottero, stiamo parlando di un baracchino, è torra, è così, io la penso così, non li spendo quei soldi, no, li ho spesi una volta e boh, non li spenderò mai più, capito? Un baracchino è un baracchino, un HF è un HF, se c'è da spendere 500-600 euro per un HF usato, anche di penultima generazione, ma che faccia tutte le cose che deve fare, allora si può fare, ma io non mi interessano a me queste cose. Baracchino va bene così, a questi livelli, e se no cosa fai? C'hai ragione, stiamo parlando, perché sei venuto giù la discussione, che stanno dicendo di baracchini nuovi, base non le stanno facendo, e come se lo stanno facendo. Questo Ranger io non lo conoscevo, per dire, tu mi dai questa ombra di dinaro, non te ne compri, però è bello, ti posso dire, c'ha tutte le possibilità di interfacciarlo. Come ci mi dia, te l'ho mandato? Sì, l'ho visto. Sì, l'ho visto anch'io adesso, baracchino, poi c'è il colore, sempre un baracchino, per me, baracchini, stiamo parlando dei baracchini, io purtroppo la penso così, quando parliamo di HF io voglio vedere un HF a sintonia continua, no? Io di completo ho il Galaxy che è per uno dei baracchini in questo momento. È completissimo, fa tutto e va bene così, però hai speso €200, capito? Non hai speso €570, ma vabbè, lascia verde. Avanti, doppio room. Ascolta, chi è che vuole entrare? Oh, Claudio. Aspetta un secondo, chi è che vuole entrare? Ti hanno scoperto, Claudio, ti hanno schiacciato a te, quando non so se eri tu che stavi uscendo male, però una portante ti ha schiacciato. E anche qua l'ha schiacciato, era 9.30 la tua portante. E quindi cosa dobbiamo fare? Devo attaccare Legnare per farmi sentire, c'è qualcuno che mi deve rompere le palle stasera? No, non attacca a nulla, però stavo dicendo un attimo, perché magari voleva entrare. Avanti, chi è che vuole entrare? Cioè, cazzo, uno non può modulare con 5 watt, 4 watt, che subito prova in alto a fare i dati. Avanti, chi vuole entrare? Siamo qua, avanti. Oh, Clark, comunque il discorso che hai fatto non è fatto, perché anche per prendere un modificato spendi 400, 450, eppure tu te ne pigliati modificati, quindi non è un discorso da fare. Se uno le piace l'apparecchio come me, se a me mi piace non guardo la spesa, se mi piace mi rubiglio. Cazzo, già tu fai sempre le uscite della minchia, perché non stai attento, stai al telefonino e non ascolti. Io ti ho detto che io li ho comprati forse prima di tutti voi, ok? L'ho fatto una volta l'errore di comprare un baracchino a €450 e non lo farò mai più, ok? Poi quello che ho, io non l'ho pagato 450 neanche 500, capito? È un cambio che ho fatto con un altro tipo di radio, perché non li spendo io quei soldi né per comprare un baracchino omologato e né per comprare un baracchino che abbia tutte queste funzioni, e per me rimane le mie idee. Nessuno sta dicendo che tu non te lo devi comprare, tu puoi valire sui tibiasi, io non ne compro perché l'ho già comprato una volta, anzi più di una volta, e non ne compro più perché non ne vale la pena. Stiamo parlando sempre di un baracchino, punto. Vabbè, siamo dei punti di vista, claro. Non è che tutti la possono pensare come te. A me, se mi piace una stazione facile, perché il garage quanto più di che costava 790 mila lire, allora. Oh, scusate un attimo, riprendo dopo. Ehi già, tu ne togli molti da sottoterra, capito? Quando io ho comprato il primo 430 l'ho pagato 2 milioni e 800 mila lire, ok? Quando ho comprato il 140 l'ho pagato 1 milione e 950 mila lire, capito? E adesso valgono 300 euro. Che discorso stai facendo? Cosa c'entra quanto costava? Io sto parlando di adesso, non di quanto costavano. Tutte le radio costavano, lo so benissimo che costava 700 mila lire Galaxy, perché forse lo conosco prima di te, però il valore adesso attuale di un Galaxy è dalle 150 alle 200 euro, non lo puoi pagare di più. Poi se uno ce l'ha e lo vende 400 euro, è che lo vende a 400 euro, io non ne dico un pareggio, ognuno della sua tasca fa quello che vuole, no? Tu c'hai la tua tasca e compri per la tua tasca, io c'ho la mia tasca e compro per la mia tasca, tu c'hai le tue idee e io c'ho le mie, e continuo a dire che baracchini sono baracchini, possono avere mille funzioni, questo per me è un baracchino base come tutti gli altri, c'ha più canali, c'ha più cose, ma sempre baracchino io lo chiamo. Dall'altra parte, quando mi giro di spalle, quelle sono radio, quelli sono apparati detti da me, ma non lo dico io, è così, capito? Poi ognuno può interpretare le cose come meglio crede, però io la penso così Gianni, poi tu la pensi come vuoi. Ma io non sto dicendo tutto, io sto parlando in generale, se si spendono 450 euro per un baracchino modificato, che tra l'altro a me piaceva, me lo sono preso perché era una cosa che a me piaceva in macchina per farmi sentire eccetera, me l'ho preso, non ho guardato la spesa e tutti mi dicevano ti puoi comprare un 440 con quei soldi, ma un 440 altro posso pure in macchina, ma è quello il problema. Ehi, ma tu stai ripetendo quello che sto dicendo io, prima di te, l'ho fatto io, ti sto dicendo, capito? Prima di te l'ho fatto io, ne ho comprato tre io modificati e l'ho pagato uno 350, uno 400 e uno 450, non lo farò mai più. Questa che ho, il Comex 5005, che è un 3009 praticamente, sono gemelli, ok, è una cosa che ho fatto a parte, non ne ho messo soldi perché non mi interessa comprarle quelle radio, se capita come ho fatto io va bene, scambi e scontro scambi, ma comprarle non ne compro più già, nessuno sta dicendo che non te lo puoi comprare, l'ho fatto anch'io prima di te, capito? Però non lo rifarei mai più perché non ne vale la pena comprare un baracchino da 450 euro perché è modificato, con quei soldi mi compro un altro tipo di radio, non so se ho reso l'idea, io però tu puoi valere i tibiasi. E anche perché le cose sono diverse, tu ti prendi un altro tipo di radio e te ne puoi ascoltare anche in altre frequenze, a me non mi dà figura di averle perché tanto io non posso entrare in altre frequenze e utilizzo una radio CD, diciamo che sia all'avanguardia. Già, ma stai continuando a dire cose che non attaccano né al muro né alla porta, perché tu ci hai avuto il 140, ne hai avuto due, capito? Quindi tutti a Sassari avete il 140, chi ha il 440 e così via. Dai, non tocchiamo questo tasto, quindi non parliamo di non mi piace, mi piace, compro e scompro, ognuno fa quello che vuole, però non mi dite che nessuno di voi ha un HF a casa, perché non ci credo, tu ce li avevi, ne hai avuto due, te li hai venduti ed è una tua scelta, e ognuno fa quello che vuole già, però io non ti sto dicendo che tu non lo puoi comprare, non te lo devi comprare, io faccio il mio ragionamento, io più di 200 euro per un baracchino non spendo, ma proprio il massimo che posso dare, perché sto parlando di un baracchino, punto, poi buonasera, ben durante un di biasi. la scelta che ho fatto adesso, da un po' di tempo a questa parte, prima io compravo qualche baracchino da 400 euro e non ne compareggio più, non so se rendo l'idea già, non ci sono altri discorsi, la tua versione è giusta e la mia versione è giusta, ognuno ha le proprie idee, io quelle idee non ce le ho più, non li spendo quei soldi per un baracchino, perché non mi interessa spenderli, capito? Ho altri tipi di cose, capito? Claudio, dica. Vabbè, 150 euro te li do io per il DAC, dai, domani portamelo e te li do io. Guarda, tu lo sai, io ti voglio bene, ti stiro e ti ammiro, però a Sassera non ne ha nessuno soldi per comprare il DAC, nessuno ne ha soldi per comprare il DAC. Va bene, dai, te ne dico allora, dai. Voglio vedere quando te lo porti via l'ultimo giorno di vita dove te lo metti. In culo me lo metto, ma non lo do. Ieri, guarda che è venuto il coso, l'amico mio, quello Giovanni, il radioamatore, che non è che ci abbia tutte queste cose, ha detto, mi raccomando, il 23.000 è già prenotato, sì, non ti preoccupare, questo lo fate tutto nel radio, ha detto, però cerchi di durare il più possibile, gli ho detto. Dillo il foglio che hai firmato l'altro giorno. Mi hai tolto la parola alla bocca, intanto sappiate tutti che io ho fatto un testamento per la mia sala radio, è l'unico proprietario di questa sala radio è Massimiliano Bulldog, il cognome non lo dico, capito? Quindi è inutile vi prenotendi, quando muoio io lui viene a casa con quel foglio, la moto carrozzella e si porta via tutto, capito? La moto carrozzella ma con un mezzo per coprirle, claro, ma brudu. No, della mani buoni sopra. Cata, andate a vedere con un furgoncino, qualche cosa elegante, ti pare molto carrozzella. Non lo avuto, però non ti preoccupare. Allora Massimiliano, e non lo buttare quel foglio, custodiscilo bene, a chi mi c'è un po' di gaimanimi. Io conosco persone che approfittano, cazzo, quando muore qualche cibio, qualche radioamatore, vanno a dare condoglianze e poi escono con tutte le radio. Vabbè, il foglio è scritto poi. Devono fare la fila. Appunto, non ce n'è fila da fare. Le radio te l'ho detto, lo sai, oramai è scritto, te l'ho firmato, controfirmato, tutte e due. Le radio sono tutte le tue, voi duni, voi vani, su e te biazzi. Oh, io vi auguro che campiate a 150 anni tutti e due. E se invece sei andato prima Massimiliano? Non c'è delle varie. Sì, Massimiliano abbiamo fatto un controfoglio. Primo che muore si porta via la roba sua. Dai, riporto il video tutti quanti, dai, che hanno visitato la funerale di tutti e due. Sì, sì, qua. Cro-cro. E la numero due invece tutti che c'è in radio la ridai. No, questa me la porto appresso, non ci sa mai vedere che stazione, che collegamento. Comunque. Comunque noi scherziamo. Allora, quando è morto Angelo Pliffo, non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto, era un CB di Alghero, poi è diventato l'elevatore. Ok, io personalmente assieme a un carissimo amico che non è più ad Alghero, lavora su in continente, Romo si chiama, che anche lui è radioamatore, dentro la bara gli abbiamo messo il portatilino della ICOM attaccato alla cinghia, acceso nel canale della frequenza che lui usava spesso con quelli di Alghero, capito? Perché Romolo si voleva abbonire un 440, no, questo lascialo stare lì che dopo tanti anni la moglie è riuscita insomma a darlo, gliel'ho fatto dare ad una persona che poi non dico chi ce l'ha qua a Sassari, vabbè, non mi interessa. Comunque gli abbiamo messo il VHF è attaccato acceso, attaccato alla cinghia del pantalone. A rompere le palle anche da morto. E infatti noi lo chiamavamo con Romolo ma non rispondeva. Avrai toccato la manco la voce per lasciare in pace. No, l'ha voluto lui, l'ha sempre detto, ti sto dicendo che voleva mettere il 4.40 dentro la bara, quando muoio. E invece molto argomento è un bisogno, capito? Andando da Alghero in moto, in fretta, perché il notaio stava andando via, me lo ricordo come oggi poverino. Ha preso la moto, un enduro. All'uscita di Olmedo, perché era velocissimo, perché doveva andare a Sassari in fretta, si è sbattuto all'uscita di Olmedo ad una roccia, morto sul corpo. Sono cose che si pagano, queste. La fretta anche a me ha fatto fare danno. Gianni, anche a te lo mettiamo però senza l'eco che mi dà fastidio. Che cosa? Anche a te lo mettiamo il baracchino però senza l'eco, vero Massimiliano? No, a me fa fastidio come ne dà. Cos'è già? Vabbè, magari dobbiamo essere noi a mettere l'arte e chi lo sa, l'arbitro non si può mai dire mai. Dai, stiamo scherzando naturalsente, dai. Quando si drammatizza su queste cose, dai, cerchiamo di essere un po' allegri, dai. Ok, stiamo lasciando in pausa a Gianni Rubroffe per la mezz'ora. Gianni, scusaci perché abbiamo fatto un po' di cattiveglia, avanti a te. Io te la muovo la radio modificata a te, lineare muro del muovo. Avanti Gianfra. Sì, giusto per chiudere, stavo guardando anch'io quel Ranger che RHF 6018, non ti dico cosa dicono i commenti. Qualcuno dice la vorremmo ancora vedere una radio dotata di eco in gambe venduta come radio amatoriale. Qualcuno dice che dentro c'è la solita cosa, praticamente il solito Ranger di tanti anni fa, che lo stesso io ce l'ho avuto tra l'altro, ma non a parte il display che ci hanno messo da 4 soldi. Non è da comprare, ecco, è un giocattolo e basta. Ma stai parlando del budget? Certo che sì, ci sono certi commenti che stanno ancora ridendo, siccome anche nella scritta che ho visto del display professionale, e anch'io onestamente sto ridendo, ma la pancia a terra proprio. Gatta. Ne conviene quindi che ho ragione io, sono stronzate che scrivono e fanno. Poi per vedere i commenti, ma come ti dicevo fa, una radio che fa anche l'HF e la vera Lecco, maio dai, sempre un baracchino, vai Robè. No, stavo dicendo, non so come è che c'era l'eco quello lì, l'ho visto così la prima volta oggi. No, guarda, ma Gianfra, il Superstar 4009 Bimaz, e guarda se ti piace quella radio. Adesso vediamo cosa dice, ma sempre su quello sono d'accordo con Claudio, c'è poco da stare a girare, ma non stiamo parlando neanche del baracchino, stiamo parlando di guardare dentro come è fatta la radio, ecco. No, ora quel Superstar 4009 non ha, vabbè, gli ingressi che c'ha quello lì, USB e cose del genere, però è in sintonia continua da 23 a 30, fa, sicuramente non è un HF, però è un baracchino evoluto, con due ingressi d'antenna, c'ha un sacco di cose, di funzioni, dai, controllatelo, certo non me lo comprerei, però secondo me non costerebbe meno di 700-800 euro un apparecchio del genere. Guarda, è meglio che non ti dica cosa ne penso, a quelle cifre... No, assolutamente d'accordo, io non li spenderei, c'è gente che spende 400 euro per una LAN 48 e anche di più modificato, ma sinceramente a quel punto, come ha detto Claudio, tanto se fuori legge con uno e fuori legge con l'altro mi prendo un HF, mi prendo 440, un 450, un 140 e li paghi dai 300 euro in su, ti trovi già un apparecchio con prestazioni molto ma molto superiori a un qualunque baracchino. Sì, ma il problema è questo, che quando compri un baracchino nuovo ti dura 440, comincia a avere difetti, devi aggiustarlo, questo e quell'altro. Io preferisco invece avere un apparecchio nuovo che ti possa durare. Sì, vabbè, quello è un altro discorso, diciamo, la fidabilità dell'apparecchio, ma se mai ritrovi un 440 appena allineato con le modifiche che dovevano farle all'alimentazione, a qualunque cosa devi fare, ci sono anche in garanzia, ti danno anche un anno di garanzia, come ti può dare un anno 48 nuovo, ci sono tante possibilità, però diciamo sono scelte da fare. Io dico sempre, ognuno fa quello che vuole, c'è gente che gli piacciono i veicolari, a me ne manca vedelli, c'è gente che gli piace il microfono da palmo, ma a me non mi piace, a me piace sedermi in poltrona col microfono da tavolo, schiacciare e parlare, con quello da palmo non ci riesco. Scusate un attimo, c'era una portante da poco fa, perché stai mettendo la portante quando parlo io? Ti sto dando fastidio, ti dice che vuoi di rocci, fammi capire. Io non l'ho sentita, Claudio. Poco fa l'ho sentita un paio di volte, Claudio, ma è stata istantanea, adesso in questo momento non ho sentito niente. Cioè mi coprono a me da te, vabbè. Sì, poco fa sì, c'erano un paio di colpi, ma pochi secondi è successo. Anche Massimiliano l'ha sentita un quarto d'ora fa e poi pochi minuti fa ho visto un paio di colpi di portante e basta. C'era tipo un fischio, ho sentito una cosa così. Anche qua ti colpiva, Franco. Qua era 9 più 30 la portante, quindi è qua vicino. E da te, Robè, quanto era? Cacchio, se Claudio è 9, quasi 9,60, fatti il conto a coprire a Claudio, più forte di lui. Vabbè. Vabbè, abbiamo già capito la chi è, vabbè, evidentemente ne gioco buchini di rocci, non sto dando fastidio a nessuno, ho capito, sto parlando con un baracchino da 8 watt e devono sempre rompere le palle, va bene, è proprio vero, cioè mi vogliono eliminare del tutto, okay. Ma sono uscito da mezzo alle balle, da una parte vengo qua e anche qua c'è qualcuno che rompe le palle sempre. Dai, grazie, Tidini, dai, è successo un attimino, non te la biglia, dai. Probabilmente prendiamola col discorso che magari qualcuno ha voluto solo provare, boh. È capitato che c'eri tu che stessi parlando, dai, non succede niente, dai, non è più successo, continuiamo a parlare tranquilli. Perché non prova quando attacco a vedere se passa? Invece di sovramodulare quando usano potenze basse le persone, per farsi vedere che sono grandi. Ma lasciamo perdere, dai. Avanti, a chi tocca? Gianni, doppio numero, riprendi. Il problema è che passava anche qua, non si capisce il punto dove era, perché anche qua si passava, e qua si se dove prende e passa, perché lo Smith arriva sia a 9.30, ma qui secondo me si è qui più. Quindi non lo so, chissà, magari non lo so, perché arrivano allo mette stava civiliano, da tutti ti complico. Riecomi, sono entrato. Non è un problema, Gianni, non ne faccio un problema, io rimango sempre al mio posto, perché poi, sai, dicono che sono maleducato, che, vabbè, chiudiamo i discorsi, se vuole sovramodularmi, che sovramodulo, faccia vedere che è più forte. Avanti, Rubrofè. Ehi, no, volevo chiedere una cortesia a Gianfranco, se mi poteva dare un rapporto di segnale. Prova a venire avanti. Facciamo un test, vediamo un po', così mi dai un rapporto di segnale, ho ripristinato l'antenna e volevo sapere come arrivavo da te. Avanti. 9.18. Ok, grazie mille. Riprendi. Come era il profeta che avete una portante? Non ho capito. Come eri tu che avete una portante? Rabbazzi. Sì, non è Gianni Brofetta, non già lo so chi è io, non ti preoccupare. A passare da Roberto, sono convinti che sono uno stupido dopo 40 anni in radio, per carità, grazie. Vabbè. Riprendi Gianfra, dai. Ho visto che tutti parlano di radio, però nessuno sa qual è la radio, ho detto radio, non baracchino, che attualmente è la più comprata anche dai CB, perché c'ha caratteristiche che piacciono molto. Ma quella cinese che ci è parlato, ho visto dei forum di quella radio. Ma la pazzira. La radio non deve costare troppo poco e né troppo. Attualmente, siccome ho avuto occasione di vederla, anche di provarla, sono rimasto a bocca aperta, costa credo 1300 euro, ma sta scendendo, la trovi anche a 1100 fra poco. Quindi altro che prendere il Ranger, aspetti un po', ci aggiungi quelle 200-300 euro e ti prendi l'ICOM IC7003. Poi me ne dà la risposta se senti disturbi, se senti questo, se senti quell'altro. E quella è veramente una tecnologia super recente e c'ha tutto, ma proprio tutto. Ma scusa Gianfra, ma stiamo parlando di baracchini o stiamo parlando di radio HF? Perché siamo passati da un discorso all'altro. Noi stavamo parlando proprio fa di baracchini professionali, come ha detto Roberto. Quindi 7.3 lo conosco molto bene, l'ho anche provato, perché è arrivato un amico e me l'ha fatto provare. Ed è un'ottima radio, non è molto grande, non è ingombrante, è molto bella, un po' più piccola del 140, va molto bene, però stai parlando di un HF tu, non stai parlando di un baracchino. Hai ragione, però io ho specificato, infatti ho detto no, non di baracchini ma di radio. Se è molto comprata anche da tanti CB, soprattutto esteri eccetera, perché evidentemente se ne intendono, molti alfatango eccetera che operano nei canali alti, evidentemente qualcosa insomma ne capiscono, ecco. Sì, so perfettamente di cosa stai parlando, ma ti ripeto, l'ho vista e provata, bella esteticamente, anche tra colori, molto bella, molto selettiva e tutto, però per noi CB a cosa serve? Serve a nuda, serve a fare numero, conviene sempre avere un bel baracchino e modulare con un bel baracchino, vabbè, avanti Massimiliano, riprendi, Gianni, di nuovo la portante c'è? No, niente. No, bisogna vedere anche come va il 27 questa radio qua, è bella l'estetica, tutto quanto, ma bisogna vedere Gianfranco come trasmette il 27. Ti posso assicurare che va benissimo, non bene, va benissimo. Siccome qua in Italia non ne comprende un tubo di neanche di 27, perché quando dici che ci sono molti canali in cui già da parecchio utilizzano la digitale, cos'è? Mentre invece i CB, ripeto, i CB inglesi, i CB tedeschi, i CB francesi lo sanno benissimo cos'è. Qua siamo rimasti a ricose, ai tromboni. Si accontenta. Sì. Io ho conosciuto dei CB che avevano il TS2000 della Kenwood, qualcuno non è riuscito a usarlo e usciva male, qualche un altro l'ha messo in forma e ti posso dire ha funzionato più che bene. Ma certo, ma perché la radio seria innanzitutto serve per difendersi dai vicini che escono anche potenti, queste tipi di radio sono ideali. E poi è una cosa nuova, una tecnologia che i baracchini non mettono per un semplice motivo, che innanzitutto è troppo costosa, è sprecata solo per la 27. E poi lasciamo perdere. Però fuori molti CB ce l'hanno, sappiate che questa è tra le più vendute anche nel campo di CB sta diventando. Sì, ho visto molti CB si stanno evolvendo anche a parecchi, non dico a quei livelli lì, ma per trovare un 850, un 940, beh, radio diciamo non nuovissime, che le paghi intorno ai 700 euro e dicono che almeno c'è una radio discreta, e dei vecchi 850, dei 940, non dico 950, perché 950 ancora costa più di 1000 euro se vai a cercarlo, ma apparati su intorno ai 700 euro ce n'è più di uno che ce l'ha. Claudio, dille come era la radio che ha avuto, com'era, 7004, pagato, cioè venduto a 700 euro, che cosa era? Altro che prendere quel Ranger, che tra l'altro non è definito CB, è definito amatoriale. Per carità. Ah, il 756 Claudio ha venduto, non il 7004. Ce l'ha avuto il 7004, Claudio. Sì, no, sto parlando di quello che ha venduto di recente, a un buonissimo prezzo l'ha venduto. E l'ho venduto anch'io ce l'avevo. Io la vedo così il discorso, qualche altro magari preferisce investire su un baracchino, io se devo investire preferisco investire su una radio un po' più efficace, non voglio dire altro, più efficace, diciamo più sensibile, meno problemi di altro, poi ognuno fa le scelte che vuole. Però ripeto, ci sono anche dei bei baracchini confrontati con altri baracchini che vanno più che bene come ricezione e sia che come trasmissione. Sicuramente non spenderei 600-700 euro per un baracchino, il limite come ha detto Claudio io direi non più di 200 euro, a meno che non c'è un vintage tipo il DAC e uno vuole un apparecchio, il top dell'epoca, vuole un apparecchio da tenere in vetrina, per dire, quello si possono spendere anche 500-600 euro, non le spenderei, però dico, è una bella radio anche a livello estetico. Fate girare però, se no facciamo solo casino qua. Quello che ho venduto io è un 756 della ICOM, non è un 7003. Ottima radio, ottimo ricetrasmettitore. Avanti, Rumblofè. Rumblofè. Tutti scomparsi, chi siamo rimasti? Io, tu, Claudio, Gianni, ci sei? Sì, ci sono. È Massimiliano. È Massimiliano? Ma adesso si è allontanato Massimiliano. No, sono qua, non penso allontanato. Scusa, ho capito male, mi allontano. Qualcuno ha detto che sto allontanando, ho sbagliato allora. Sì, ma mezz'ora va. No, sono qua sempre in ascolto. Sto facendo le orecchie da porco, una da porco e una pelosa. Ti ha rimaniato un puttino in gran moffo, casino. Vabbè, dai, vi lascio parlare tra di voi, tanto devo uscire adesso, dai. Divertitevi, scusate se ho fatto il monopolio della frequenza, ma capita molte volte, dai. Vi saluto, ciao Claudio, ciao Gianni, Massimiliano, poi chi c'era? Gianfranco, Rubrofetta e tutti gli eventuali amici qua in ascolto. Io devo far cosa adesso? Buon proseguimento, dai, magari ci sentiamo domani. Correti da parte mia, ciao ciao. Ciao Robert, ciao, mica stavo scherzando, fatti la figlia. Avanti Massimiliano. Ciao Falcone, ci sentiamo, va. Avanti Gianfranco. Sì, ciao. Ciao, buona serata e buona cena, anche perché tra poco sta vicino all'orario. Riprendi Claudio. Fatto già così tardi. bene, ciao. Oh Robert, ci aggiorniamo, dai, cordialità, saluti, no, no, perché magari poi qualcuno sempre parlando le stesse cose si stufa e si innanda, niente di che. Comunque ci sono belle radio, no Gianni, per rispondere a te, io sia col 7004 che l'ho avuto e poi l'ho venduto per prendere altre radio, usciva molto bene, lì come escono, ce ne sono alcuni che escono benino in 27, non a livello del Kenwood, però escono bene, e il 7003 esce molto bene e il 756 usciva molto bene in AM, alcune del radio della Icom, ma escono tutte bene, ma non a livello del Kenwood.